E là a tutti. Pronti per una bella immersione? Oggi ci tuffiamo in un concetto un po' particolare, forse non ne avete mai sentito parlare, feudalesimo digitale, un po' come tornare indietro nel tempo, no? Ma niente cavalieri e castelli questa volta, parliamo del mondo digitale in cui viviamo tutti i giorni. Esatto, il feudalesimo digitale in pratica prende spunto dal feudalesimo storico. Pensate ai signori che controllavano la terra, le risorse e i servi della gleba che lavoravano per loro. Oggi, beh, è un po' lo stesso con i giganti della tecnologia, tipo Amazon, che fanno un po' i signori moderni. E non è solo una singola azienda, vero? È un sistema intero. Il libro di cui parliamo oggi, Digital Feudalism, Creators, Credit, Consumption and Control di David Arditi, lo spiega molto bene. Dice che il feudalesimo digitale si basa su tre pilastri: consumo infinito, precarietà e servitù per debiti. Già, proprio così. Arditi sostiene che questo sistema ci spinge a consumare sempre di più, a lavorare in condizioni sempre più precarie. E spesso ci ritroviamo intrappolati in un circolo vizioso di debiti. Ok, quindi questo consumo infinito, di cosa si tratta? Arditi racconta un aneddoto molto comune, direi, di quando ha disdetto la TV via cavo pensando di risparmiare, ma poi, per vedere i suoi programmi preferiti, si è dovuto abbonare a un sacco di servizi di streaming spendendo ancora di più. Vi ci ritrovate? Io sì. Tu cosa ne pensi? Sì, è una trappola in cui cascano in tanti. Le aziende sono bravissime a creare nuovi bisogni, a farci sentire come se dovessimo comprare sempre di più, anche cose di cui non abbiamo veramente bisogno. Pensate, per esempio, ai nuovi modelli di iPhone che escono ogni anno. Anche se il tuo telefono funziona ancora benissimo, ti fanno venire voglia di avere l'ultimo modello con nuove funzioni, spesso inutili. Vero, e nel libro c'è un esempio perfetto, le capsule di caffè Keurig, costano anche della testa rispetto al caffè normale, ma sono così comode, no? E vi ricordate quando Keurig ha provato a impedire alle persone di usare capsule non originali con quel sistema di IRM? Massimizzare il profitto a tutti i costi. Eh sì, è un esempio lampante di come le aziende cercano di controllare le nostre scelte come consumatori per fare più soldi. Ma la domanda è solo colpa loro o anche noi ci caschiamo? Siamo così facilmente manipolabili? Bella domanda, forse un po' entrambe le cose. Passiamo ora alla precarietà. Arditi fa un paragone interessante. Quando era piccolo c'era una cameriera che lavorava nello stesso ristorante da 30 anni. Oggi invece nei ristoranti moderni i dipendenti cambiano continuamente. Che differenza enorme in termini di sicurezza del lavoro. Sì, questo dimostra il passaggio all'accumulazione primitiva nell'era digitale. I lavoratori vengono spinti verso il lavoro autonomo senza un impiego stabile e questo porta a instabilità e competizione sfrenata. In pratica, si riduce il numero di dipendenti con tutele e garanzie e si crea una massa di lavoratori autonomi, spesso in competizione tra loro e con meno diritti. E il libro parla anche dei software di pianificazione, usati moltissimo nel settore dei servizi. In teoria sono efficienti, ma per i lavoratori significano orari e stipendi imprevedibili. Giusto, e questo ci porta a una domanda importante. Quali sono le conseguenze a lungo termine di queste tendenze? Come impatta la gig economy non solo sui lavoratori, ma anche sulla qualità dei servizi e sul tessuto sociale in generale? È un modello davvero sostenibile o prima o poi si scontrerà con i suoi limiti? Tanti spunti di riflessione, davvero. Ora parliamo di servitù per debiti. Arditi usa la canzone 16 Tons per spiegare come il debito può intrappolare i lavoratori. È un'analogia forte, vero? You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Descrive perfettamente questo circolo vizioso di dipendenza. È un promemoria di come il debito può vincolare i lavoratori, proprio come i servi della gleba erano legati ai loro signori in epoca feudale. Però forse non è così semplice, il debito è sempre negativo o può essere anche uno strumento per creare ricchezza e migliorare la propria situazione economica. Pensate ad esempio ai mutui per la casa. Interessante. Quindi Arditi critica la servitù per debiti, ma allo stesso tempo non possiamo negare che il debito possa essere utile per la crescita personale ed economica? Esatto, e questo è un punto su cui l'autore non si sofferma molto. Vero, direi che è arrivato il momento di parlare di un esempio concreto di feudalesimo digitale. Amazon. Pronti? Certo, Amazon. Spesso la si indica come l'esempio perfetto di feudalesimo digitale, ma è davvero così semplice? Arditi si concentra sul loro dominio, ma non dovremmo considerare anche la scelta del consumatore e la concorrenza? Vero, nessuno ci obbliga a comprare su Amazon, ci sono alternative. Ma l'impatto di Amazon sul lavoro? Arditi critica la loro dipendenza dai lavoratori autonomi, il controllo sui dipendenti, tutte queste cose. Sì, sono preoccupazioni importanti da affrontare, certo. Però Arditi sembra dimenticare che Amazon crea anche tantissimi posti di lavoro, direttamente e indirettamente. Si concentra solo sugli aspetti negativi, senza riconoscere i benefici economici per i lavoratori e le comunità. Quindi non è così semplice etichettare Amazon come il cattivo della situazione. Hanno impatti positivi e negativi sull'economia e sul lavoro. A proposito di lavoro, parliamo di influencer e dell'economia dei creatori. Arditi dice che perpetuano il mito del successo individuale, nascondendo le disuguaglianze del sistema. Ma non c'è anche tanta creatività genuina e spirito imprenditoriale in questo mondo? Assolutamente. Arditi sembra ignorare il duro lavoro, il talento e l'innovazione di tanti creatori. Si concentra solo sul potenziale di sfruttamento, senza riconoscere l'autonomia e lo spirito imprenditoriale che portano molti al successo. Quindi non sono solo cartelloni digitali, come li chiama lui. C'è passione, abilità, un legame vero con il pubblico che contribuisce a costruire una piattaforma di successo. E metaverso. Arditi lo vede come un'estensione del feudalesimo digitale, ma non potrebbe anche creare nuove opportunità di connessione e collaborazione. Certo, Arditi si concentra sui rischi del controllo aziendale e della sorveglianza nel metaverso, preoccupazioni valide. Ma trascura il potenziale dei mondi virtuali per la creatività, la costruzione di comunità e persino la partecipazione democratica. Come per ogni nuova tecnologia, ci sono rischi e opportunità. Sta a noi, come individui e come società, plasmare il modo in cui vengono sviluppate e utilizzate. Esatto. Arditi presenta il feudalesimo digitale come un destino inevitabile, ma abbiamo potere di influenzare l'evoluzione di questi sistemi e di creare un futuro digitale più equo e sostenibile. Insomma, abbiamo trovato dei punti deboli nella tesi di Arditi. Offre una critica interessante del feudalesimo digitale, ma bisogna guardare il quadro completo, considerare i benefici e le controargomentazioni. Prima di concludere, però, vorrei approfondire un ultimo argomento, il quiet quitting di cui parla Arditi nel libro. Un fenomeno interessante che riflette i cambiamenti nel mondo del lavoro nell'era digitale. Qualcosa con cui molti ascoltatori si identificheranno, soprattutto dopo la pandemia e le grandi dimissioni. Pronti ad esplorare questo tema? Certo. Parliamo di questo quiet quitting, allora. In realtà non significa lasciare il lavoro. Giusto. È più una questione di limiti, di fare il minimo indispensabile, una specie di protesta silenziosa contro la cultura del lavoro a tutti i costi, gli ambienti di lavoro tossici. Esatto. C'è un po' di disillusione verso l'idea che dobbiamo sempre dare il massimo, superare le aspettative anche a costo del nostro benessere. E Arditi collega tutto questo al feudalesimo digitale. Dice che la tecnologia ci rende sempre connessi, sempre disponibili per il lavoro, e questo contribuisce al burnout, al desiderio di staccare la spina. Sì, la tecnologia può offuscare i confini tra lavoro e vita privata, ci fa sentire sempre reperibili, però non dimentichiamoci che abbiamo anche noi la responsabilità di stabilire dei limiti, di dire no a queste pressioni. Alla fine siamo noi che scegliamo di rispondere alle email di lavoro a mezzanotte o di lavorare nel weekend. Quindi il quiet quitting può essere una forma di resistenza, un modo per riprenderci il controllo del nostro tempo e delle nostre energie. Ma è una strategia efficace a lungo termine o è solo un cerotto su una ferita più profonda? Bella domanda. Può dare un sollievo temporaneo dal burnout, certo, ma non risolve i problemi alla radice. Forse ci vuole qualcosa di più radicale. Tipo, cosa possiamo fare per andare oltre il quiet quitting e creare un modo di lavorare più sostenibile e appagante? Arditi parla di azione collettiva, sindacati, cooperative di lavoratori come strumenti per controbilanciare gli squilibri di potere del feudalesimo digitale. Esatto. Non basta la resistenza individuale, bisogna unirsi per chiedere condizioni di lavoro migliori, stipendi più equi, più autonomia e controllo sul nostro lavoro. Quindi non si tratta solo di stabilire dei limiti personali, ma di un cambiamento sistemico, di un'azione collettiva. E forse, dico forse, questo malcontento crescente potrebbe portarci verso un futuro digitale più equo e sostenibile. Un futuro in cui non siamo solo servi della gleba digitale, ma partecipiamo attivamente a plasmare il mondo che ci circonda. Un'immagine potente e stimolante. Se il feudalesimo digitale è il sistema dominante, come possiamo creare un mondo digitale più giusto e umano? Una domanda che ci spinge a riflettere, a cercare soluzioni insieme. E questo è proprio lo scopo di The Deep Dive. Darvi gli strumenti per navigare in questo mondo digitale complesso, per mettere in discussione le cose, per essere protagonisti del cambiamento. Grazie per esservi uniti a noi in questa immersione profonda. E alla prossima.